Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Questa casa non è un albergo per fare quello che vuoi. Questa casa non è un albergo per farci comodi tuoi. Buongiorno a voi e benvenuto ad Alberto Pellai, che è già qui accomodato vicino a me. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Alberto, oggi abbiamo deciso di affrontare un tema impegnativo, difficile e complesso. Abbiamo però deciso di affrontarlo dopo tanti dubbi, perplessità. Ne abbiamo discusso molto. Ci sono proprio quegli argomenti o quei temi di cui spesso hai paura a parlare, spesso le parole non dette sono un po' più facili delle parole che invece vorresti dire, ma è proprio un tema intorno al quale è importante informare, comunicare, fare prevenzione, sapere intervenire, per cui la puntata di oggi è applicata alla depressione in adolescenza e anche al tentativo di suicidio in adolescenza. Immagino che magari i genitori un po' si spaventano, dicono di che cosa ci vogliono parlare oggi, ma vedete, sarà proprio una puntata importante per tutti noi. E abbiamo in linea con noi due grandi esperti. Saluto e bentornato al professor Gustavo Pietropolli Charmé, psichiatra, grande esperto di adolescenti e genitori di adolescenti. Professore, bentornato. Buongiorno, ben ritrovati. In linea con noi abbiamo anche il dottor Antonio Piotti, psicologo e psicoterapeuta dell'adolescenza, insieme al professor Charmé, autore di un libro di cui parliamo oggi. Benvenuto, dottor Piotti. Buongiorno a tutti. Il libro è uscito da poco, si chiama Uccidersi, il tentativo di suicidio in adolescenza, è pubblicato da Raffaello Cortina Editore. È un libro impegnativo, molto importante, aiuta a fare chiarezza proprio su un'area dove c'è molto buio, c'è molta nebbia, tra l'altro proprio anche noi esperti ne sappiamo pochissimo, quindi ci avvarremo molto del contributo dei nostri due specialisti. E per lanciare il tema vi proponiamo proprio una lettera che ci ha ispirato la trasmissione di oggi. Delusione d'amore. Mio figlio viene lasciato dalla sua fidanzata dell'ultimo semestre e dopo qualche giorno in cui finge di aver assorbito il colpo con una certa nonchalance, in realtà entra in uno stato di mutismo e rassegnazione che dura ormai da qualche settimana. Si alza al mattino per andare a scuola, torna a casa e si chiude in camera sua. Continua ad avere buoni risultati in termini di profitto, ma la sua vita sociale è praticamente azzerata. In realtà, con la sua ragazza si era un po' isolato da tutto e da tutti, e ora è veramente solo. Ma vederlo così triste mi spaventa. Mi chiedo quale sia il confine tra una normale delusione d'amore, che poi passerà, è una vera e propria depressione. E mi domando anche che cosa dobbiamo fare noi genitori. Sono spaventato. Non vorrei sottovalutare il problema. C'è un modo per far uscire mio figlio dalla sua stanza e fargli riassaporare il gusto della vita? Ecco, quella che ci è appena stata descritta è una situazione abbastanza tipica. Professor Charmé, è frequente il dolore profondo per una delusione d'amore, specie in adolescenza. E quanto profondo può diventare questo dolore, professore? Molto, molto profondo può diventare quel dolore lì, quello di assistere proprio sgomenti alla propria morte nella mente della persona che fino al momento prima ti amava, ti pensava, ti sorrideva e ora non ti vuole più. Questa è un'esperienza che quando succede per la prima volta, appunto durante l'adolescenza, impone di sperimentare, di tollerare, di elaborare, di superare un dolore terribile. Alcuni ragazzi non ce la fanno e rimangono lì agghiacciati dalla perdita, dall'impossibilità di tollerare l'affronto che la vita, ma anche la persona amata, ti somministra e cominciano a prendere in considerazione l'idea di poter in qualche modo vendicarsi, uscire dal dolore, trionfare su questa mortificazione terribile, su questa deprivazione proprio della speranza e del progetto che si condivideva con la ragazza o col ragazzo che si era riusciti ad amare, dal quale si era riusciti anche a farsi amare, costruendo un capolavoro che è la coppia amorosa adolescenziale. Questo è uno dei traumi che fanno prendere in considerazione ad alcuni adolescenti l'eventualità di utilizzare uno strumento terribile che è accompagnarsi, farsi accompagnare dalla fantasia di potersi dare la morte volontariamente e di imporla anche agli altri, a quelli che ti hanno derubato del futuro e che ti hanno imposto di patire un dolore così terribile e così mortificante, perché non era previsto dal regolamento della vita che ci si potesse ritrovare così soli, senza nessuna giustificazione apparente, se non l'oblio di essere stati cacciati fuori dalla possibilità di sperare ancora. Quella che lei ha appena definito una fantasia di poter anche scomparire dalla vita, in realtà, lo dicono le ricerche, è un pensiero che ha una sua frequenza nel mondo degli adolescenti, ma dal pensare una cosa, dall'avere una fantasia, a passare invece all'azione c'è una bella differenza. Ed effettivamente credo che la paura e lo spavento di questo papà stia proprio intorno a questa potenziale fantasia che potrebbe esserci nel figlio. Volevo chiedere al dottor Piotti se quello che il papà ci ha appena raccontato può essere considerato un adolescente depresso che sta attraversando un episodio depressivo maggiore. Ma questo tecnicamente credo che sia piuttosto difficile. Intanto bisognerebbe dire che non è che bisogna andare a cercare il rischio suicidale soltanto nella depressione. Molto spesso gli adolescenti che poi attentano alla loro vita, che hanno, come dire, sviluppato fantasie suicidali, apparentemente, perlomeno apparentemente, non sono depressi. Qui bisognerebbe vedere perché, in qualche modo la depressione ha a che fare con qualcosa di molto diverso dal lutto per un abbandono e dovrebbe avere a che fare proprio con una perdita del sé. Forse si potrebbe dire in questi termini, negli innamoramenti dei ragazzi un elemento fondamentale è vedere se ci si innamora dell'altra persona o se si mette sull'altra persona un'immagine di sé, ecco, cioè se si fa un innamoramento narcisista. Quando viene meno quell'innamoramento lì è più pericoloso perché non muore solo l'altro, muore anche il sé. E da questo punto di vista è chiaro che c'è un senso di vuoto profondo. E la minaccia suicidale in quel contesto non è trascurabile, fosse una roba fondamentale. Quello che possiamo dire, che noi possiamo osservare, no? Come voi tre siete tutti addetti ai lavori, ma che ci sono dei ragazzi più attrezzati e dei ragazzi che ci sembrano più fragili, più incapaci di affrontare quello che la vita gli mette davanti. Può essere un insuccesso scolastico, una storia d'amore che finisce, una separazione dei genitori, un lutto. Alberto? Sì, molto probabilmente ci sono proprio dei ragazzi che di fronte a un fallimento o a qualcosa che nella vita percepiscono come un fallimento, sperimentano delle emozioni molto forti. Potrebbe essere la rabbia per non avercela fatta. Un altro tema che ricorre molto frequentemente anche nel libro dei nostri due esperti è la vergogna, che in questo momento è una delle emozioni più intollerabili nel mondo degli adolescenti, soprattutto quando è una vergogna che ti rende piccolo, che ti rende debole o che ti rende di pochissimo valore agli occhi di questa società che ci vuole comunque sempre vincenti, in forma. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, parliamo di ragazzi in crisi, in una crisi profonda. Insieme a noi il professor Charmé, il dottor Piotti, naturalmente Alberto Pellai, con cui abbiamo deciso di trattare questo tema che a noi genitori fa paura perché non sappiamo come affrontarlo. Pensiamo che siamo, no, di esserne assolutamente al di fuori. Poi all'improvviso succede nelle migliori famiglie quello che era un ragazzo socievole, allegro, positivo, con ottimi successi scolastici, amante dello sport, quindi un ragazzo d'oro, improvvisamente diventa un ragazzo che si chiude, che passa ore e ore a casa da solo, che stacca la spina, non ha relazioni, e allora qualche cosa è cambiato. È sempre un fulmine a ciel sereno, chiedo al professor Charmé, o ci sono delle avvisaglie che noi genitori non riusciamo a cogliere? No, non sempre è un fulmine a ciel sereno. È vero che purtroppo non è affatto facile prevedere l'evento suicidale, il comportamento suicidale, però è anche vero che ci sono, come dire, degli avvertimenti. Spessissimi i ragazzi che sono andati al di là di una fantasia di suicidio e che hanno cominciato invece a prendere in considerazione un progetto, quindi a immaginarsi la scena, a individuare lo strumento con cui eventualmente, se la vita si accanisce ancora, se ci saranno altre mortificazioni, altri voltafaccia, altri tradimenti, allora gliela si farà pagare, ci si tirerà fuori da tutti i giochi, si vedrà bene chi piange e chi invece continua a sorridere, beffardo, eccetera, eccetera. Allora il passaggio a questa fase più avanzata della fantasia, che è il progetto suicidale, spesso lascia trapelare, come dire, degli indizi. Il problema è che però gli adulti che circondano i ragazzi hanno una difficoltà ampiamente comprensibile a prendere in considerazione l'eventualità che la malinconia, la tristezza, il dolore di un adolescente sia così profondo da sconfiggere le ragioni della vita. Questo è quello che rende così difficile parlare della morte volontaria nella relazione educativa sia col figlio sia con gli allievi, con i ragazzi in genere. Hanno la difficoltà da parte degli adulti a prendere in considerazione questa eventualità terribile, cioè che il dolore sia veramente come dire, proprio di casa, dentro nella mente dell'adolescente, in quella fase del suo sviluppo, in quel contesto, eccetera. E allora è per questo che vi sono intanto gratissimo di poterci consentire di discutere tutti assieme di questa cosa, perché davvero penso che da un punto di vista educativo dobbiamo superare questo muro del silenzio che circonda il fatto che un 20-25% di studenti della scuola superiore, nelle ricerche che abbiamo fatto assieme a tanti altri in Italia ma anche all'estero, ha in mente la fantasia di suicidio, è disponibile eventualmente un domani a prendere in considerazione l'idea del suicidio. Allora, se ha vicino degli adulti che non prendono neanche lontanamente in considerazione un'eventualità che invece riguarda un ragazzo su quattro, allora diventa difficile poterne parlare e raccogliere indizi dell'esistenza di un'eventualità, di un progetto di questo genere. Professore, lei però si rende conto che per un genitore, per dei genitori, è molto difficile sedersi ad un tavolino e dire bene, vieni qua, oggi parliamo, ti sono mai venute delle idee, hai mai accarezzato l'idea di ammazzarti? Io non troverei le parole, ma penso con me, come me, molti altri, forse neanche Alberto. Ma devo dire che nel parlare con i genitori questo è proprio un fantasma, uno spettro che hai dentro, soprattutto se vedi cambiare drasticamente tuo figlio e cominci a farti pensieri e fantasie, ma è così impensabile l'idea della morte in un momento in cui stai andando incontro alla vita che ti diventa quasi impossibile pensare che su questo possiamo aprire una conversazione. Professore, la mia era un po' una richiesta, non di aiuto, ma voglio dire, come si può non lasciare fuori casa e quindi parlare ai figli anche di questo rischio, senza avere la paura di in qualche modo fargliela venire in mente. Questo è il punto fondamentale, capisce? Che nel nostro paese culturalmente c'è un po' questo pregiudizio che parlare di fantasie suicidali, quindi non di atti o di comportamenti o di progetti, ma di fantasie suicidali, di pensieri attorno alla morte, sia istigare al suicidio. Ecco, questo credo che sia quello che frena qualsiasi discorso, qualsiasi relazione educativa, che a dire il vero, se ci pensiamo a mente fredda, non è un discorso tanto proibito, è chiaro che c'è la vita e c'è la morte, no? Ma il fatto che da un punto di vista educativo, ma anche culturale, la morte sia stata completamente rimossa dalla scena, rende molto difficile il discorso sulla morte, sul fatto che moriremo tutti e che alcuni prendono in considerazione l'idea di morire quando decidono loro e non quando decide il destino. Allora, su questo sarebbe invece quanto mai utile, non perché si teme che il figlio possa suicidarsi, ma perché fa parte dell'educazione in generale, dei discorsi da farsi nella relazione educativa, quello del grande tema della nostra esistenza, di come ci collochiamo rispetto alla morte, dando per scontato che per decidere di vivere bisogna prima aver deciso di non morire e che quindi è ovvio e scontato che si prende in considerazione, per scartarla, l'idea che quando si scopre, più o meno si scopre prima dell'adolescenza, in preadolescenza, che si morirà, si scarta l'idea di uccidersi e si aspetta tranquillamente che venga l'ora. Soprattutto non ci si pensa, professore. Non ci si pensa, dico io. No, non ci si pensa, questo mi sembra il problema. Quindi, siccome noi che siamo andati proprio a cercarli, i ragazzi che progettano di morire, siamo andati a prenderli nei pronti soccorsi dove avevano già, erano stati ricoverati per le prime cure dopo un tentativo di suicidio, e abbiamo ricostruito tutti i precedenti, tutti i mesi o gli anni anche precedenti. Siamo sicuri che si arriva a mettere in atto un atto suicidale dopo averci pensato e dopo averci progettato per tanto tempo? E allora perché non se ne può parlare? È vero che, siccome è un gesto molto violento, c'è, come dire, un pudore. È vero che la fantasia suicidale la si tiene lì perché consola da tutte le mortificazioni che si subiscono, si dice va bene, però dopo un bel giorno farò un gesto imperiale, trionfale, mi recupererò l'onore, la bellezza, ve la farò pagare, eccetera, eccetera. Però è anche vero che si capisce che gli adulti non sono disponibili. Io penso che su questo dobbiamo riflettere. Questa trasmissione bellissima che fate, credo che possa dare un contributo piccolo, no? Avviare una discussione, ne parliamo, non ne parliamo, cosa facciamo, eccetera. Dottor Piotti, voi proprio insieme al professor Charmé avete davvero seguito tantissimi ragazzi e ragazze che hanno attuato un tentativo di suicidio, in realtà spesso hanno proprio fatto in qualche modo una rappresentazione sulla scena della morte, da cui l'unica intenzione era quella di fare un gesto dimostrativo e poi tornare indietro, lanciare un messaggio molto molto forte. Ci sono differenze in questo comportamento nel gruppo dei maschi e nel gruppo delle femmine? Ci sono significati diversi che ragazzi e ragazze danno a questo gesto di fronte alla famiglia o al loro gruppo di pari? Nella letteratura in effetti un po' di differenze compaiono. Per esempio, quando abbiamo cominciato a lavorare, noi siamo partiti con l'idea che il tentativo suicidale dei maschi fosse più pericoloso. Cioè risultava che il modo di uccidersi dei maschi fosse un modo che distrugge proprio il corpo, come gettarsi dalla finestra, come buttarsi sotto il metrò, e quindi fosse una roba proprio ultimativa. E che invece nelle donne ci fosse un atteggiamento in cui in qualche modo aggredire il corpo era più difficile, per cui era più un tagliarsi, era più un avvelenarsi. E in effetti la letteratura testimonia di come ci siano più tentativi di suicidi nelle donne, ma più suicidi riusciti nei maschi. È anche vero che, procedendo nella ricerca, nell'esperienza, abbiamo visto centinaia di casi, poi queste differenze sono andate sfumando. E in qualche modo direi che la letalità non è così, così diversa. Un punto volevo anche aggiungere rispetto alla discussione di prima, come dire, anche come questo rifiuto sociale a parlare del suicidio, no? Che forse ha delle origini antiche, una volta si seppellivano i morti per suicidio fuori dal cimitero. Ha un effetto anche devastante in uno dei modi di dire, dei modi di pensare, delle culture, per esempio il fatto di dire chi lo dice spesso poi non lo farà mai. Ecco, questa qui è una roba essenziale, bisognerebbe cercare almeno di convincersi che non è così, che colui che dice diverse volte che vuole morire è una persona a rischio. È una persona a rischio, è una persona che sta raccontandoci. Non è uno che sta, certo, è anche un messaggio, è anche una richiesta d'aiuto, ma è una richiesta d'aiuto rispetto a un tema molto preciso, quello della morte. E non può essere sottovalutato dicendo ma se lo dice sempre non lo fa, perché io ho visto tante volte situazioni in cui c'era gente che lo diceva sempre e poi lo ha fatto. Ecco, fra quelli che sono morti per suicidio è frequente che loro lo avessero detto prima, no? E che la comunicazione fosse stata sottovalutata, anche per esempio a livello di ricovero ospedaliero. Questo era un punto su cui abbiamo lavorato molto, cioè in ospedale si cerca di risolvere la situazione per esempio come uso incongruo dei farmaci o formule di questo genere, che non mandano veramente il messaggio che uno ha cercato di morire. Così magari il soggetto viene dimesso il giorno dopo, la notte stessa. Questo è un rischio. Questo è un rischio. Questa casa non è un albergo. Siamo tornati insieme, è arrivato il momento del nostro consiglio di lettura e poi di nuovo parliamo di tentativo di suicidio negli adolescenti con il professor Charmé e il dottor Piotti. Grazie all'iniziativa di Internet Bookshop oggi potete ricevere a casa il libro che si intitola L'autostima degli adolescenti. Per ricevere questo libro a casa dovete essere il primo ascoltatore a inviare un'email con il titolo del libro, i vostri recapiti e il numero telefonico a esserebenessere@radio24.it. In collaborazione con IBS.it. Abbiamo una seconda storia da farvi ascoltare, poi la commentiamo insieme ai nostri ospiti. Nella classe di mio figlio, 2 mesi fa, un compagno si è tolto la vita. È successo durante il weekend in modo totalmente inaspettato. Nessuno aveva sospettato nulla e riesco solo ad immaginare quanto grande possa essere la pena di quei 2 genitori. Mio figlio, negli ultimi giorni, è diventato particolarmente taciturno. Questo evento lo ha segnato profondamente. A scuola hanno deciso di partecipare al funerale tutti insieme, ma poi ognuno ha proseguito la sua vita facendo finta che nulla fosse accaduto. Ho provato a parlare con mio figlio della cosa, ma mi sono accorto che lui non aveva voglia di approfondire. Dava risposte a spizzichi e bocconi. Ora il suo essere silenzioso e ombroso mi spaventa molto. Mia moglie dice di stare tranquillo. Gli adolescenti sono tutti fatti così. Ma credo che questo è esattamente quello che pensavano i genitori del ragazzo che si è tolto la vita. Come si fa ad evitare che una cosa così grave possa accadere in una famiglia? E quanto devo forzare il silenzio di mio figlio, che più volte mi ha fatto capire di non voler parlare in alcun modo di ciò che è successo al suo compagno? Ma, professor Charmé, come mamma devo dire che queste storie entrano nelle nostre famiglie, anche se le viviamo, no? A fianco, devastandole. È una storia che per un genitore, anche solo a immaginare la pena dei genitori di quel ragazzo, non gli fa trovare parole e spacca il cuore. D'altra parte ci fa toccare con mano che non siamo preparati. Sì, certo, certo che è così. Però insomma, poi in realtà vivendo si entrano in contatto con questi eventi e ci si rende conto che bisogna tenerne conto e che non è solo la famiglia, ma anche la scuola deve tenerne conto, deve prendere in considerazione che la scuola è diventato il palcoscenico sul quale i ragazzi portano tutto, il corpo, il desiderio, l'amore, l'affettività e quindi anche il dolore, la rabbia, la vendetta, la morte. E che la scuola è uno dei luoghi dove si tentano il suicidio, si va a uccidersi, come nel caso citato da questo padre meraviglioso che si è messo in ascolto del proprio figlio, del dolore del proprio figlio, che cerca un contatto. Allora, noi abbiamo preso in serissima considerazione quello che tutte le ricerche scientifiche degli ultimi anni documentano, cioè che quando un suicidio tramortisce una comunità giovanile come una scuola, un campeggio, eccetera, c'è un rischio di contagio, c'è un rischio di emulazione. E allora quella struttura, quell'associazione, quella scuola bisogna che prenda, come dire, delle precauzioni rispetto all'eventualità che il gesto terribile compiuto dal proprio compagno di banco, dal proprio compagno di classe, trovi, come dire, degli emulatori e che il suicidio venga vissuto dai coetanei come un gesto di coraggio. Allora noi abbiamo organizzato tanti interventi nelle scuole dove sono morti degli studenti e abbiamo consigliato caldamente il preside, il consiglio di classe e l'associazione dei genitori di, come dire, organizzare degli eventi, delle discussioni dove si potesse organizzare un funerale, come dire, scolastico al caduto lungo la strada della crescita e seppellirlo con tutto il dolore, eccetera, eccetera, ma poi anche di esecrare il gesto violento, il tradimento consumato dall'amico che senza dire niente, senza parlare, senza avvertire, ha compiuto un gesto violento nei confronti degli amici, di quelli che gli volevano bene, per non parlare dei genitori, dei fratelli, dei fidanzatini e delle fidanzatine. Quindi questo dividere, no? Elaborare proprio nella scuola, nei giorni immediatamente successivi a questo terribile trauma, le 2 cose, da un lato il lutto per la perdita dell'amico, ma dall'altro anche proprio l'esecrazione del suicidio, altrimenti i ragazzi sono più portati a vederlo come un gesto di coraggio e a come dire, celebrare e a santificare quasi l'amico che si è suicidato, beatificarlo, e questo è molto pericoloso culturalmente, perché favorisce in alcuni ragazzini fragili che non si vedono, che non si sa dove siano e che però sono nella rete delle relazioni significative, l'idea di imitare il comportamento, e questo è documentato dalle statistiche. Quindi questo padre ha ragione a dire: bisogna che faccia qualcosa per mio figlio, perché lo vedo troppo triste, isolato, però lui non vuol parlare con me, e però sarebbe stato bello che a scuola ci fosse stata questa possibilità di dialogo collettivo, perché è uno studente che si è suicidato, è anche il figlio della propria famiglia, ma è anche il membro di una società che è la scuola. Vorrei chiedere al dottor Piotti, molte volte la scuola però dice: noi non abbiamo le competenze, ci state davvero chiedendo troppo. Un'attività che per noi è quasi sovrumana, per cui serve uno specialista per, in un caso di questo tipo, serve... Ah sì, penso senz'altro che la scuola abbia ragione quando dice questo, è in realtà un compito difficilissimo, tant'è vero che quasi nessuno lo assolve, è molto difficile affrontare questo tema della morte, ed è anche pericoloso, come diceva Sciamme prima, c'è il rischio che poi si faccia come l'altarino del ragazzo che si è suicidato, e questo invece di essere... come dire, un elemento di freno, diventa una specie di istigazione, quindi è pericoloso trattare senza competenze, trattare senza esperienza questi temi. Stiamo parlando del dopo, ma è possibile anche pensare a un prima? Cioè c'è qualcosa che la scuola può fare per evitare che un'azione del genere possa succedere ad uno dei suoi studenti, o proprio per intercettare eventualmente uno studente a rischio e poi in qualche modo indirizzarlo verso un aiuto specialistico? Sì, certo. A noi è successo parecchie volte durante il nostro lavoro con i ragazzi a rischio suicidale che fossero le scuole a segnalarceli. Chi vi segnalavano? Qual era il profilo del ragazzo che vi veniva segnalato? Ah, poteva essere per esempio il ragazzo che in un tema aveva confessato questo desiderio, perché le fantasie dei ragazzi sul suicidio sono molto elaborate, molto lunghe, protratte nel tempo, e quindi diventano proprio dei progetti che si costruiscono, che talvolta hanno anche un valore consolatorio in qualche modo, qualcosa che serve a tranquillizzare. E quindi quando un insegnante viene a contatto con, io credo che nell'esperienza degli insegnanti, non so, degli insegnanti di lettere, ma forse di tutti gli insegnanti, sia frequente incontrare un ragazzo che ha questo problema e che si fida di quell'insegnante e glielo dice. E di solito è una confessione molto dolorosa da ricevere per un insegnante, molto faticosa, che lo mette in crisi. Il fatto di poter avere un riferimento, come dire, una possibilità di chiedere aiuto, di mandare questo ragazzo da qualcuno, di condividere questa paura, credo che sia molto utile per gli insegnanti. I segnali sono questi, non esistono segnali proprio, come dire, eclatanti, visibili, pericolosi, così. Sono quei segnali in cui a un certo momento un ragazzo si fida un po' di te, si apre, te la dice questa cosa, che ha sempre conservato dentro di sé, che non comunica mai a nessuno. Persino noi, quando facciamo la terapia con i ragazzi, dobbiamo proprio chiederglielo ai ragazzi. È importante che anche i psicologi imparino a chiedere ai ragazzi: come lo chiedete? Hai mai pensato di morire? Hai mai pensato di morire? Questa è una domanda, fate questa domanda diretta? Sì, la facciamo spesso, specialmente con i nostri ragazzi che hanno tentato il suicidio. Succede che il rischio è quello di abbandonare la presa dopo un po' di tempo. Senti, ma ci hai pensato ancora a questa cosa? Ne vuoi che ne parliamo ancora? Deve essere una cosa che in qualche modo non viene mai dimenticata. Per il lavoro dello psicologo che si occupa di ragazzi suicidali, credo che la cosa più difficile sia tenerla sempre a mente. Professor Charvet, un genitore allora, se ha una confessione da parte del figlio, oppure se il figlio, anche quasi con un tono non troppo serio, ma gli ripresenta questo progetto, deve tornare quindi sull'argomento, approfondire, portarlo da un esperto? Che cosa si deve fare, professor Charvet? Sì, assolutamente, assolutamente. Bisogna prendere molto sul serio, senza disperarsi, però senza darsi per vinto, ma prendere molto sul serio dal punto di vista educativo, dal punto di vista della relazione, perché il rischio è banalizzare. Certo. Il rischio è mortificare il dolore che uno ha e che così en passant esprime, parlando magari di un film che ha visto, di un amico X che avrebbe quest'idea, pensa a te, eccetera. Bisogna raccoglierlo, questo spunto, e aprire, come dire, un dialogo educativo, consapevoli che se ne parla Beh, insomma, questa idea abita nella mente del proprio figlio, e poi se ci fossero davvero dei luoghi specializzati dove di questo si può andare a parlare tranquillamente, non tranquillamente, tranquillamente nel senso che si sa che si ha a che fare con persone che hanno studiato questo problema e che, come dire, cercano di capire quali sono i fattori di rischio, cioè se il contesto educativo, se la qualità di vita, se la fragilità del ragazzo è tale da poter far pensare che si trova effettivamente in una situazione ad alto rischio, se invece è così, una fase, un momento, ma anche una provocazione, anche un tentativo di catturare una maggiore attenzione, un maggiore affetto, una maggiore disponibilità, o anche semplicemente i grandi interrogativi dell'adolescenza, che senso ha la vita se poi si muore, e quindi la supponenza narcisistica di poter cavalcarla la morte, non star lì passivamente ad aspettarla. Noi siamo in chiusura di trasmissione, io ringrazio davvero i nostri esperti che ci hanno fatto fare questo viaggio faticoso, ma dove ci hanno aperto, no, delle luci, guarda, delle finestre, e io, Alberto, se sei d'accordo, chiederei la collaborazione del professor Charmé e del dottor Piotti, per di mettersi a disposizione magari degli ascoltatori, dei nostri genitori, se volessero avere delle informazioni, delle risposte, delle indicazioni, scriveteci, essere benessere@radio24.it. Alberto? Sì, credo due messaggi: non rimaniamo soli, non rimaniamo in silenzio, credo che i nostri due esperti oggi ce l'hanno proprio fatto capire. Se volete approfondire, il loro libro è Uccidersi, il tentativo di suicidio in adolescenza, appena uscito per Raffaello Cortina Editore. Avevamo paura a fare questa trasmissione, in realtà credo proprio che abbiamo fatto una cosa molto importante per tutti. Allora un saluto a tutti, buon sabato da Nicoletta Carbone ed Alberto Pellai.